in primo piano. Come detto, venerdì 3 giugno, vediamo intanto i titoli di apertura. Il Sole 24 Ore apre sull'evasione. Evasione in media 2.000 euro a testa. Il sommerso invece a 275 miliardi. Sono dati, per un certo senso, per un certo verso inquietanti, che vedremo tra poco. Poi le altre aperture, c'è chi sceglie la questione del batterio ignoto, il batterio killer, paura per il batterio ignoto, così titola il Corriere della Sera. Per Repubblica, batterio killer, paura in Europa, e così Il Secolo XIX, il batterio killer spaventa l'Europa. Mentre il 2 giugno è l'apertura per La Stampa, Napolitano, l'Italia in difficoltà ma merita fiducia, così Il Messaggero, l'Italia merita fiducia, è la frase del capo dello Stato. Il Giornale punta sul calcio, trema anche la Serie A, il nuovo calcio scommesse. Il Fatto Quotidiano invece tira fuori una vicenda che parte da Genova. Berlusconi non riesce a smettere festini fino a 2 mesi fa. È una nuova, non inchiesta, ma sì, nuove intercettazioni che vengono dalla procura di Genova, vedremo perché. Per Libero, scegliete il nuovo leader, primarie fai da te. Libero inizia una campagna per dire: scegliete, cari lettori, il successore di Berlusconi. L'Unità, avanti pop sui referendum, e così Il Manifesto mette una centrale, una foto di una centrale nucleare in sottofondo. Non c'è chi dice no, si concentra sui referendum. Allora, io vorrei iniziare proprio da questa inchiesta, da questi dati che ci sono in prima pagina del Sole 24 Ore, perché sono dati che fotografano una certa Italia, no? L'Italia, in questo caso, dell'evasione IRPEF. Sono dati del gruppo di lavoro insediati dal ministro Tremonti in preparazione della riforma fiscale, guidati dal presidente dell'Istat Giovannini. E come detto, il titolo d'apertura del Sole è questo: evasione in media 2.000 euro a testa. È questa la media. Il tasso medio di evasione fiscale degli italiani è del 13,5% del reddito dichiarato. Si tratta in pratica come se ogni contribuente non dichiarasse 2.093 euro. I dettagli poi sono tutti a pagina 3. L'evasione IRPEF in media, appunto, 2.000 euro. Dove si evade di più? Al centro Italia, dove si evade in media il 17,4% del reddito, dunque 2.936 euro, a fronte del 14,5% al nord, 2.532 euro, e il 7,9% del reddito al sud. È una media, ovviamente, quella che viene data, quella dell'evasione dell'IRPEF. Il tasso medio, raccontano Marco Mobile e Dino Pesole, stimato, proprio si è attestato al 13,5% del reddito dichiarato. Questa è la sintesi contenuta in questo studio. Evadono anche più gli uomini delle donne. L'evasione maschile è pari al 17,3% contro il 9,9% di quella femminile, ed evadono soprattutto i più giovani. I contribuenti più giovani mostrano una maggiore propensione a evadere, così come i residenti del centro Italia, come detto, rispetto alle altre zone geografiche. Dunque, il profilo dell'evasore fiscale è più giovane, maschio e del centro Italia. Questo si legge, i dettagli poi li trovate sempre più specificati a fianco di un altro dato che certo fa anche questo scalpore, che viene analizzato a pagina 2, è quello del sommerso. Il sommerso vale 275 miliardi di euro. Questo è la mappa dell'infedeltà fiscale, dell'economia fantasma in qualche modo. Il record è in agricoltura, nel settore dell'agricoltura, con il 32,8% del prodotto, poi i servizi con il 21% e l'industria al 12%. E un altro dato che analizza Gianni Trovati è che 3 milioni sono stimati i lavoratori in nero, al top soprattutto nel settore degli alberghi e dei bar. Tutto questo lo trovate a pagina 2. Dunque, come dire, una fotografia, un modo per fare una fotografia dell'Italia con cui apre oggi il Sole 24 Ore. Voglio citare anche, prima di andare in pubblicità, un articolo che ho trovato a pagina 30 del Corriere della Sera, per parlare di un taglio un po' più leggero, che riguarda un po' tutti noi che viaggiamo ogni tanto in aereo: la questione del sedile reclinabile della Discordia. Quale diritto è più forte in volo? Perché L'ultimo caso è avvenuto su un aereo decollato da Washington e diretto ad Accra, in Ghana, che è dovuto ritornare per una rissa scatenata a bordo da parte dei due passeggeri. Il problema era il sedile reclinabile, classica situazione di uno che sbatte giù il sedile per riposarsi e va a finire praticamente in braccio a quello dietro. Il problema, racconta il Corriere della Sera, di questa rissa a bordo è che sono sempre più le compagnie, soprattutto quelle low cost, che riducono gli spazi. La media EasyJet e Ryanair di distanza da un sedile all'altro nella classe ovviamente economy è dei 73,7 centimetri. Si alza un po' di più nelle compagnie non low cost, a 78,7 centimetri, per esempio la British Airways, Lufthansa, all'Italia a 81,3 centimetri tra un sedile e l'altro. Le più comode da questo punto di vista, che tengono 86,4 centimetri tra un sedile e l'altro, le più virtuose dunque sono la Malaysia Airlines e la Thai Airways, la compagnia thailandese. E certo, l'ultimo caso, rissa a bordo per lo spazio, con tanto anche di intervista a Carlo Rossella, anche noto viaggiatore, che dice: io che ho sperimentato di tutto, spintoni, pezzi di bagaglio che ti cadono in testa, ginocchiate, gente che sgranocchia, sto con quello che si è arrabbiato, come lo capisco. Allora, la politica sulle pagine dei giornali di oggi si concentra ancora sul dopo amministrative e sul secondo grande tema, che è quello dei referendum. Allora, il tema dopo amministrative, che vede il PDL che già ha modificato con la nomina, o meglio la nomina non ancora, la designazione non ancora ufficializzata del nuovo segretario del partito Angelino Alfano, che ha ribadito ieri, intervenendo al TG1, la centralità della figura di Berlusconi, e diciamo i giornali, soprattutto anche i giornali d'area di centrodestra, più vicini al centrodestra, che si interrogano su questo. Intanto sul Foglio, in prima pagina, il Foglio che ha lanciato con Giuliano Ferrara il dibattito dell'idea delle primarie da fare, lo ha fatto anche ai nostri microfoni il direttore del Foglio, l'idea delle primarie nel centrodestra per decidere chi è il leader. Oggi nel commento politico: le primarie piacciono al PDL ma non subito e nella legge elettorale. Il Foglio ha lanciato una proposta, si legge in prima pagina: primarie del PDL a ottobre con Berlusconi candidato alla presidenza del partito. Ma un premier eccessivamente ottimista in superficie ma pensoso nelle occasioni più private corrisponde a un personale politico che giudica prematura la scelta della leadership per il 2013 anticipata già a ottobre di quest'anno. Dunque un Berlusconi che scrive il Foglio appare più titubante, insomma pensoso, appunto, a dire forse è presto. La verità è che ci sono delle iniziative, per esempio basta prendere in mano oggi Libero. Beh, Libero che cosa fa? Parte con una campagna tra i propri lettori: scegliete il nuovo leader. Questo è il titolo di prima pagina. Le primarie fai da te. Quando il cavaliere si farà da parte, chi dovrà essere il candidato premier del centrodestra? Lo chiediamo ai lettori, che possono votare sul sito di Libero. E già a pagina 2-3 ci sono i primi risultati. Volete sapere come finora si sono espressi in 14.377 voti sul sito di Libero? Vince per il momento Gianni Alemanno col 19% dei voti, davanti ad Angelino Alfano, poi Tremonti, Formigoni, Maroni, Marina Berlusconi, e poi Flavio Tosi, Mara Carfagna, la Gelmini, Zaia, la Russa, ben staccati. Quindi per il momento, secondo i lettori di Libero, in questo primario e fai da te, Gianni Alemanno è in testa come possibile successore di Berlusconi. Quindi a capire, insomma, che da una parte, se Berlusconi questo tema, almeno pubblicamente, non lo affronta, i giornali, anche d'opinione, l'opinione pubblica invece si interroga su questo futuro, su questa futura successione. Lo fa anche oggi Roberto Formigoni, leader della regione Lombardia, il presidente della Lombardia, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 15, dice: beh, intanto la scelta di Angelino, cioè Alfano, è quella giusta, ma non bisogna pensare che questa mossa possa risolvere tutti i problemi. Diciamo che i nostri elettori non saranno sobbalzati sulla sedia sentendo la notizia. Così dice Formigoni, che poi aggiunge: la questione vera è tutt'altra, è politica, e vorrei che questa scelta, mi piacerebbe, fosse ratificata dalla nostra gente, magari attraverso un congresso. Ecco, in qualche modo anche Formigoni rilancia l'idea delle primarie. Poi parla di Tremonti, altro rapporto all'interno del centrodestra un po' burrascoso. Non voglio personalizzare la questione, ma a Giulio l'ho già detto: tu che sei il più bravo non puoi non affrontare la questione degli euroburocrati. La mia proposta è convocare subito un summit straordinario a Bruxelles proprio sui temi dell'economia. Bisogna partire subito, al 2013 mancano meno di 2 anni e entro Natale la nostra gente deve vedere con mano che ci stiamo muovendo e che il messaggio di disagio che ci hanno mandato col voto amministrativo è stato colto. E poi rilancia appunto sulle primarie. Formigoni dice: assieme a me alle primarie potrebbero partecipare, mi vengono in mente altri nomi, Alfano e Tremonti, ma anche la mia amica Gelmini, un rappresentante dell'area ex Aenna, forse Gianni Alemanno, chissà. Questa insomma l'idea di Formigoni, che appunto rilancia anche lui questa idea delle primarie. Per quel che riguarda invece il toto nomine, perché ci sarà anche questo per una ventina di giorni, sul possibile successore di Angelino Alfano al ministro della giustizia, al ministero della giustizia, visto che Alfano lascerà il ministero, sempre le quotazioni di Lupi, vicepresidente della Camera, salgono, ma secondo una notizia che viene data dal Corriere salgono anche le quotazioni di un magistrato, vale a dire Carlo Nordio, che è procuratore aggiunto a Venezia, è uno che ha presieduto anche la commissione di riforma del codice penale quando c'era ministro il leghista Castelli. Ieri in realtà intercettato dal Corriere ha detto: scrivete pure che non ne so niente. Ci sono anche altri nomi, per la verità, l'ex magistrato Francesco Nitto Palma, oppure il sottosegretario al Viminale Alfredo Mantovano, l'onorevole Anna Maria Bernini che è avvocato, ma insomma il Corriere vuole lanciare soprattutto Nordio come possibile nome. Vabbè, ci si può concentrare anche se volete sul 2 giugno con tutti i giornali che si concentrano sull'appello di Napolitano, il capo dello Stato, che ha detto l'Italia ce la può fare, l'Italia ce la farà, questo è il messaggio, l'Italia merita fiducia, questo ha detto il leader del mondo, ci sono delle difficoltà ma andiamo avanti. Tutti i giornali poi, è un gran classico, si concentrano in maniera un po' ossessionata a seguire sul palco con tanto di fotografie, obiettivi sempre concentrati, la parata vista dagli occhi del presidente del Consiglio Berlusconi. L'anno scorso era quello per il, nel quale, vi ricordate, aveva fatto un apprezzamento visivo molto eclatante al passaggio di una croce rossina, che quest'anno ha sfilato ancora, anche se un po' più defilata. Ci sono foto di Berlusconi con le mani sugli occhi, in un momento sembra un po' assopito, si alza, si abbassa, si siede, si sposta, insomma Berlusconi che viene con l'obiettivo vivisezionato in ogni suo movimento sul palco. C'è anche, tutti i giornali pongono l'accento su questa gaffe di etichetta che avrebbe fatto quando si è avvicinato al re Juan Carlos di Spagna e lo ha toccato sul braccio. Allora l'etichetta reale prescrive che i reali non possono essere toccati, perché sono loro che decidono se avvicinarsi a qualcuno. E invece Berlusconi, che è andato lì, ha toccato, ha messo la mano sul braccio del re di Spagna, ha compiuto un gesto che l'etichetta condanna tantissimo, di lesa maestà, non lo so, di insomma un errore, una gaffe. Ecco, questa è stata la gaffe quest'anno del presidente del Consiglio, secondo tutti i giornali. Repubblica ci fa una pagina, la gaffe con il re Juan Carlos, il cavaliere tra fischi e sbadigli. La politica si interroga molto anche sulla questione dei referendum. Tra l'altro noi alle 8:20 vi annuncio avremo nell'intervista il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, che è uno dei leader politici che più si è speso per la raccolta delle firme di questi 4 quesiti referendari. Ebbene, i referendum, PD e Italia dei Valori in piazza per i referendum, così titola il Corriere della Sera. Ovviamente si discute molto soprattutto sul nucleare, tra l'altro si registra e viene intervistata dal Manifesto Margherita Hack, una sorta di retromarcia. Margherita Hack che dice: per la verità, il nucleare, io sono sempre favorevole al nucleare, resto convinta che il nucleare ci vorrà e non bisogna fermare la ricerca, ma annuncia, firmerò, andrò a votare e darò il voto per i 4 sì. Non è una marcia indietro, avevo detto che l'Italia è tutta a rischio sismico eccetto la Sardegna, penso invece che del nucleare oggi se ne possa fare a meno in Italia. Ecco qui la retromarcia. Ma perché lo motiva così Margherita Hack? Perché gli italiani sono poco affidabili e un paese di come si è scoperto all'Aquila, dove si può costruire mettendo sabbia nel cemento o tagliando piloni alle fondamenta, dove la mafia si infiltra dappertutto, forse è un paese dove c'è da preoccuparsi. Dunque Margherita Hack non ne fa una questione scientifica contro il nucleare, anzi tutt'altro, ma una questione di sistema Italia, che secondo lei non è abbastanza affidabile per una scelta di questo genere. Tra l'altro ieri è tornato in TV Adriano Celentano, sempre più scatenato, io l'ho intravisto credo 12 secondi e poi ha parlato ovviamente del nucleare. È una questione di vita o di morte raggiungere il quorum. Questo è il verbo di Adriano Celentano ieri. Oggi il giornale è durissimo con il commento di Alessandro Sallusti in prima pagina. Sentite come definisce Celentano. Cosa vogliamo dire di Adriano Celentano? Grande cantante, ma soprattutto grandissimo paraculo sulla nostra pelle, grazie al fatto che lo prendiamo sul serio. Ieri ad Anno Zero ha avuto microfoni aperto senza condizioni, un antinuclearista ambientalista maniaco. Celentano ci ha fatto l'ennesima predica sul progresso cattivo. E scrive Sallusti: perché Santoro non manda un inviato a raccontare la reggia di cemento e acciaio che Celentano ha costruito in un bosco della Verde Brianza? Che vetture e che tecnologia usa Celentano per spostarsi e soddisfare capricci e necessità? Lui vuole vivere nel 2011 con tutte le comodità del tempo e rimandare noi nella via Gluck, tutta prati e cascine. Questo Alessandro Sallusti. Libero si concentra anche poi sul fatto di un video che spunta, nel quale nel 2008 il leader, che allora non era leader del PD, Bersani, parlava invece della necessità, anche della possibilità di privatizzare i servizi di controllo dell'acqua. Diceva Bersani all'epoca: stiamo decidendo di vendere l'acqua a qualcuno? No. Stiamo dicendo che diamo via le infrastrutture? No. Stiamo dicendo che facciamo una partnership industriale per rafforzare la nostra capacità di gestione. Come faccio a fare in modo che si perda meno acqua, che si depuri bene, che si facciano investimenti in modo sensato? Devo chiamare uno che è capace di fare quel mestiere lì, che è un mestiere difficile. Ecco, queste parole di Bersani vengono messe sotto il titolo "Sputtanato, acqua ai privati", lo diceva 2 anni fa Bersani. Per chiudere la politica, due notizie dal Fatto Quotidiano a pagina 3. Gianni Barbacetto e Ferruccio Sansa si concentrano su un'inchiesta della Procura di Genova che riguarda presunti frodi fiscali, riguarda Flavio Briatore, la vicenda del Nota, ricordate la scorsa estate, del suo yacht Force Blue che fu sequestrato. Intercettando però Briatore e altre e le persone che parlavano con lui, pare che in queste telefonate si parlasse tra Briatore, Daniela Santanchè e altri personaggi, Emilio Fede, si parlasse delle feste Bunga Bunga. Le feste Bunga Bunga ora si fanno a Villa Gernetto, che è una residenza del Premier a Lesmo, un paio di chilometri dalla residenza di Arcore. Ebbene, una cosa va detta subito, scrive il Fatto: dalle conversazioni non emergerebbero nuovi reati né a carico di Berlusconi né dei suoi amici, ma in termini non sempre affettuosi ci sono colloqui di persone che parlano anche di un Berlusconi che avrebbe dei problemi, proprio come aveva detto Veronica Lario, di un Berlusconi nel quale si discute di Lele Mora e si discuterebbe di queste feste. Questo scrive il Fatto Quotidiano. Faccio il solito quiz: credete che queste intercettazioni prima o poi le leggeremo sui giornali? La risposta ovviamente è sì. Eccoci qua, allora il mondo del calcio è terremotato perché per questa vicenda del calcio scommesse. Tra l'altro vi ricordo che alle 8.30 questo è il tema del nostro sondaggio, il calcio scommesse. Vi chiediamo: il mondo del calcio è ancora credibile secondo voi? E tra l'altro questo è un tema che trovate anche sviluppato sul Sole 24 Ore. L'inchiesta si allarga a Bari, questo è il titolo di pagina 6, tutti i termini di un'inchiesta che trovate poi, ripeto, sviluppata anche su tutti gli altri giornali, anche perché ora quello che si teme è che si possa allargare tutta la questione anche sulla Serie A. Per esempio, un giocatore importantissimo, giocatore capitano della Roma, giocatore della nazionale, vale a dire De Rossi, viene citato in una telefonata, di questo presunto sodalizio criminale. Certo, la procura ha fatto sapere che De Rossi non è assolutamente indagato, non c'entra con l'inchiesta, questo ha detto il titolare dell'indagine, il PM Francesco Di Martino. Però il dato di fatto è che viene citato in una telefonata. Gioca l'over, ho appena parlato con De Rossi, così dicono due indagati. L'over vale a dire quando le partite finiscono con tanti gol, con 3 o 4 gol, credo. Ho appena parlato con De Rossi. Beh, certo, questa due indagati che parlano non è una bella telefonata, ma chiaro, il procuratore dice magari mi lantavano. Di certo non c'è nulla nelle indagini riguardo a De Rossi. Di certo viene anche messa sotto la lente di ingrandimento una partita finita 4-3, quella tra Genoa e Roma. Trema anche la Serie A, così titola anche il giornale che ci apre in prima pagina. Tra l'altro viene intervistato da Repubblica il CT della Nazionale Prandelli, che dice: ci sono troppe tentazioni, ci sono troppi tipi loschi, invita ad abbattere nel calcio il muro dell'omertà. In quelle categorie ci sono soprattutto quelle minori situazioni paradossali. Nonostante questo non va messa alcuna giustificazione, nessuna pietà. Chi ha sbagliato è giusto che paghi. E poi dice: attorno a un calcio ci sono persone losche che cercano solo di guadagnare, sta alla famiglia, sta al club, alla società sportiva far capire che queste persone vanno allontanate. C'è anche sul Corriere una sorta di tariffario di quanto pagavano queste persone per cercare di combinare i risultati delle partite, da 1.000 a 20.000 euro. Ecco il costo dei giocatori infedeli, scrive a pagina 27 il Corriere della Sera. Queste bande di scommettitori identificate come i milanesi, gli zingari, gli albanesi, i bolognesi, e di quest'ultimi faceva parte, secondo l'accusa, l'ex bomber Beppe Signori, finito agli arresti domiciliari. Partite come Benevento Cosenza, finita 3-1, per la quale bastarono appena 20.000 euro per una decina di calciatori della squadra calabrese, anche perché non prendevano lo stipendio e dunque bastava così poco. Oppure per truccare invece partite di Serie B ci vogliono anche 15.000 euro a giocatore. È sotto la lente di ingrandimento Siena-Sassuolo, che finisce 4-0, con un giocatore, Daniele Quadrini, identificato come giocatore infedele del Sassuolo, corrotto con 50.000 euro insieme ad altri due atleti. Insomma, le accuse sono davvero clamorose e rischiano di nuovo di terremotare il calcio. Tra l'altro, il Sole 24 Ore per il secondo giorno consecutivo si concentra anche su quelli che sono i conti proprio del calcio. Nel pallone, più debiti che ricavi, a pagina 7. Crescita fuori controllo per l'esposizione con le banche. Sono Marco Bellinazzo e Maria Luisa Colledani che parlano del calcio italiano SPA, a pagina 7, che arranca nel tenere i conti in ordine. Non riesce a portare stabilmente inutile i bilanci, un legame col sistema bancario e finanziario che si fa sempre più stretto. Il rischio concreto è quello, per esempio, di perdere, insomma, per quel che riguarda i ricavi commerciali e gli sponsor. Alcuni dati che fanno abbastanza sobbalzare, fanno capire qual è la fotografia di difficoltà economica del calcio italiano, è questa. Oltre 300 milioni sono gli incassi da sponsor, pubblicità e merchandising della Serie A italiana, 300 milioni di euro. Nella Liga spagnola gli incassi sono 450 milioni, nella Premier League 610 milioni, nella Bundesliga addirittura 697 milioni. Dunque i ricavi anche in termini di sponsor, pubblicità e merchandising in Serie A italiana rispetto agli altri tornei europei sono veramente più bassi. Che dire di cronaca? C'è molto e molti quotidiani li aprono, siamo quasi in chiusura, sulla questione del batterio killer. Come detto, i giornali ci aprono tutti ad analizzare quello che sta succedendo. Il batterio ignoto, sono 18 morti, scrive il Sole 24 Ore per il momento, a pagina 11, soprattutto in Germania, 17 decessi e uno in Svezia, ma ci sono oltre 2.000 casi stimati in Europa di contagio di questo batterio killer, già definito così dai giornali. Un batterio non uccide nessuno. E ci sono i consigli, il consiglio che viene profuso più da tutti i giornali, da tutti gli esperti, è quello di rispettare molto l'igiene, quindi lavarsi molto le mani prima e dopo il pranzi soprattutto, o quando si va in bagno, è la regola fondamentale per cercare di prevenire le infezioni da questo batterio che normalmente si annida nei nostri corpi. Oh, di cronaca c'è anche molto, tutti i giornali si concentrano su quello che è successo per la vicenda Ajazzone, con persone che, truffate dal fallimento anche dell'azienda e dal fatto che hanno speso dei soldi e non hanno mai preso dei mobili, che cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che il segretario di Rifondazione Comunista Ferrero ha detto è stato un atto di giustizia: hanno preso la macchina, sono andati ad Ajazzone e hanno fatto un po' di razzia. Hanno preso chi un mobile, chi un cassetto, chi un letto, chi un divano. Hanno fatto una sorta di quelli che si chiamavano espropri proletari, no? Tanti anni fa, con i tir all'assalto di Ajazzone, la spesa fai da te per 200 truffati, un'intera pagina della Stampa, ma anche il giornale. Sproprio di massa da Ajazzone, Rifondazione dice un atto di giustizia. C'è per Luigi Battista anche in prima pagina del Corriere che dice ritorna questa idea di esproprio prioritario, i mobili razziati, la solidarietà di Rifondazione, e queste sono le accuse di Pierluigi Battista in prima pagina del Corriere.